Friuli nel mondo, 230esima trasmissione dedicata agli emigrati. Giuseppe Peresson, nel primo centenario della nascita. A conclusione della Prima Guerra Mondiale, ai primi di novembre del 1918, il Friuli orientale, rimasto fino allora sotto l'Austria, entrava in seno alla grande patria. Su iniziativa di un gruppo di uomini di cultura, cui stava a cuore lo studio e la valorizzazione della lingua e degli usi e costumi del Friuli, nacque la Società Filologica Friulana, che tanta importanza doveva avere nella valorizzazione di ogni manifestazione popolare. Il profondo amore dei friulani per la loro terra spinge tuttora molti studiosi, anche a costo di notevoli sacrifici, alla raccolta di materiale etnografico. In primo piano di questo materiale figurano arie e motivi di vecchi canti popolari. Benemeriti di sì lunga appassionata ricerca, il professor Enrico Morpurgo, Lea Dorlandi, il professor Ercole Carletti, il dottor Carlo Conti, i maestri Augusto Cesare Seghizzi, Franco Escher, Giovanni Battista Marzuttini, Arturo Zardini, Luigi Garzoni, Luigi Vritz, Mario Macchi. Ma dei 640 canti pubblicati dalla Società Filologica Friulana in prezioso volume nel 1966, ben oltre 300 sono stati raccolti dal maestro Giuseppe Peresson, la cui memoria è stata recentemente onorata nel paese natale, Arta Terme, in Carnia, nel primo centenario della nascita. Thank you. Il Peresson, cieco fin dall'età di 3 anni, con una folta nidiata di figli da sfamare, privo di risorse economiche, girò per molti anni a piedi fin nei più reconditi paesini carnici per ascoltare i canti della sua terra. In tale amoroso compito, chi accompagnò il maestro Peresson nelle sue peregrinazioni fu il figlio Giuseppe, vivente, che dal padre apprese la musica e ne trascriveva le note che il genitore andava dettandogli dopo aver ascoltato i motivi dalla viva voce dei valigiani, patrimonio di alto valore folcloristico e spirituale. Il maestro Peresson, scomparso a 86 anni nel 1956, dopo un'umile, tormentata ma illuminante esistenza, caratterizzata da doti morali non comuni, non fu soltanto raccoglitore indifesso di canti popolari o insegnante apprezzatissimo di musica nelle scuole del paese, ma anche creatore e direttore di cori e di bande musicali, oltre che compositore di mottetti e di pezzi religiosi, era l'organista della sua vetusta pieve e di delicati, armoniosissimi canti friulani. Abbiamo già ascoltato Prime Vere e L'Ore d'Ignot, ed ora, sempre nell'esecuzione del coro di Arta Terme, che porta proprio il nome di Giuseppe Peresson e che è diretto dal maestro Arnaldo De Colle, gusteremo altre 3 composizioni. Su testo di Ferdinando Somma, pure di Arta Terme, ecco qui la briosa Vigilia di San Juan. Si riferisce ad una leggenda carnica che riguarda le ragazze da marito. Corrono esse alla vigilia di San Giovanni, nella notte estiva, alla ricerca di un grillo che sarà tosto collocato sotto di un bicchiere per essere liberato al mattino successivo. A seconda della direzione che il grillo sceglierà appena liberato, da quella parte esse potranno sicuramente attendere l'arrivo dello sposo. Ma se dannatamente il grillo morirà durante la notte, non vi sarà briciolo di speranza. Dovranno rassegnarsi a rimanere zitelle per tutta la vita. E adesso sentite questa villotta che riassume ed esprime tutto il tormento di ogni emigrante al momento del distacco dal paese natale. Anche le parole sono dello stesso maestro Peresson. Oh, Ed ecco ora la struggente invocazione che il maestro Persson, presago quasi della sua prossima fine, si indugiava volentieri a ripetere sulla tastiera ingiallita del pianoforte negli ultimi giorni della sua vita. È un canto che, sulla stesura musicale dell'autore, aderente al più schietto spirito tradizionale del canto popolare, l'allievo Arnaldo De Colle ha voluto armonizzare quale pegno di riconoscente amore al suo venerando maestro. O sunait, sunait campanis, che il mio cur le par sclopà, cum a quartin la me biele, tal sagrà assoterà. E io sol su queste tiere, non le cas che poi distà. O la muart mi vegna a chioli, che il mio ben vei la chiatà. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.